giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Aumentano le donne che denunciano violenze, il dato che emerge dalla giornata contro la violenza. Chiudere le iniziative a Codroipo, il ricordo di Elisabetta Molaro, uccisa 40 anni dal marito. Vertenza Varzi l'ha riconvocato per martedì al Ministero il tavolo di confronto e iniziative parlamentari della PD Serracchiani e del gruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. L'immigrazione può essere un'opportunità ma va regolata, è la linea della regione espressa dall'assessore Roberti durante una conferenza sull'accoglienza ai profughi ucraini. L'esperienza dell'ANOF per l'integrazione. La raccolta differenziata dei rifiuti in regione al top in Italia e Udine è il capoluogo in cui si paga di meno per lo smaltimento. I dati nel rapporto rifiuti urbani di Cittadinanza Attiva. Salgono i contagi da coronavirus in Italia, indice di trasmissibilità RT a quota 1,04. In regione 200 casi in più in una settimana, impennata dei ricoveri, ma il Friuli Venezia Giulia non è ancora tra le regioni a maggior rischio. A un mese esatto dal Natale, via lo shopping natalizio con l'apertura in Fiera Udine di Idea Natale e c'è anche la Fiera di Santa Caterina. A Pordenone Natale in città dal 3 dicembre. E si pianificano i matrimoni in fiera a Pordenone con la rassegna riso e confetti. Il settore si sta riprendendo bene. Diminuiscono i matrimoni in chiesa, l'età degli sposi è in aumento. In regione oggi la 26esima edizione della colletta alimentare ha come obiettivo la raccolta di 500 tonnellate di cibo da donare a 36.000 persone in grave stato di difficoltà. Lo sport, pallacanestro Trieste oggi in casa contro Brescia per il salto di qualità, in A2 Cividale in casa contro Ferrara con il nuovo arrivato Clark. In campo femminile, derby di A2, Apu Udine, Futurosa Trieste. Per il calcio, amichevoli di lusso per l'Udinese il 17 dicembre al Friuli contro l'Athletic Bilbao. Sono le 7.20 di sabato 26 novembre. Buongiorno da Maria Spezia e Andrea Covre in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo è da nuvoloso a variabile. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 11 gradi, a Gorizia 9, Udine e Pordenone 4, Tolmezzo 4 gradi e mezzo, Forni di Sopra 2 e mezzo, Piancavallo 0 gradi, Sapada meno 3, Tarvisio meno 3 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 0, Montelussari meno 1 grado e mezzo. Tornando sulla costa, grado 10 gradi, a Lignano 9 gradi e mezzo. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: di mattina nuvolosità variabile, in giornata schiarire a partire dalla Carnia fino a cielo sereno. Soffierà vento da nord-est sostenuto in quota, bora moderata in pianura, a tratti sostenuta sulla costa. Ora le notizie. In apertura il ricordo di Elisabetta Molaro a Codroipo, la città dell'ultima vittima di femminicidio. In Friuli Venezia Giulia si è riunita in un momento di riflessione nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Elisabetta aveva 40 anni e 5 mesi fa è stata uccisa a coltellate dal marito. Una storia terribile che ha lasciato il segno. Da allora a Codroipo è aumentato il numero delle donne che hanno avuto il coraggio di denunciare. C'erano le scarpette rosse davanti al municipio di Codroipo il giorno dell'ultimo saluto a Elisabetta Molaro, assicuratrice quarantenne, uccisa nel giugno scorso con decine di coltellate dal marito, Paolo Castellani, da cui voleva separarsi. Le scarpette rosse sono tornate nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 5 mesi dopo il femminicidio, a poco più di 3 settimane dall'avvio del processo, la comunità è ancora scossa. L'auditorium si riempie per un incontro organizzato dai colleghi di Elisabetta. Non se la sentono di parlare. Avremmo voluto non dover mai organizzare questo momento di riflessione, ci dicono. Siamo stati veramente traumatizzati, direi. Una situazione che ci coinvolge tutte, al di là del conoscere o no una persona. In Duomo, poco prima, una messa celebrata in suffragio di tutte le vittime di violenza. Elisabetta lavorava lì a pochi passi. Veniva a prendere il pane, andava a bere il caffè, c'è una persona che si vedeva sempre, nessuno avrebbe letto dietro questa immagine così, diciamo, serena, vorrei dire felice, un dramma che si sarebbe potuto svolgere così. E il post è stato molto doloroso per la comunità, perché è come se tutti si fossero un po' sentiti quasi in colpa di non essere riusciti a capire, di non aver potuto fare niente. Un avvocato in paese ci confida che dopo l'omicidio di Elisabetta c'è stato un aumento del numero di ragazze che si siedono nel suo ufficio, decise a denunciare i propri aggressori. Non è sempre facile, come testimonia Annunziata, la madre di un'altra vittima di femminicidio, Aurelia Laurenti, uccisa nel Pordenonese 2 anni fa. Aurelia era terrorizzata di denunciare assolutamente no, perché la minacciava sui bambini. che li portava via e non li vedeva più. Codroipo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mondo del lavoro, l'avvertenza Varzila. A seguito della richiesta avanzata dal governatore della regione Massimiliano Fedriga, il tavolo di crisi è stato riconvocato per martedì prossimo, 29 novembre, nella sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma. All'incontro, in rappresentanza dell'amministrazione regionale, parteciperà l'assessore al lavoro Alessia Rosolen, che ha ribadito la priorità di mantenere costante e attivo il presidio istituzionale sulla situazione dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, con l'obiettivo di definire strategicamente il percorso di reindustrializzazione, garantendo i posti di lavoro. Rendere stabile il tavolo di crisi e di reindustrializzazione del sito Varzila è la priorità anche per la capogruppo PD alla Camera Deborah Serracchiani. Lo ha ribadito in sede di replica la risposta alla sua interpellanza urgente sulle iniziative del governo per la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Rispetto alla proposta di Varzila di mantenere la produzione sino a fine giugno 2023, Serracchiani ha sottolineato che è molto pericoloso immaginare questa scadenza e ha chiesto al Ministero di fare la sua parte per convincere l'azienda. I deputati regionali di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro alla Camera, e Nicole Matteoni, hanno presentato nelle commissioni lavoro e attività produttive una risoluzione firmata da tutto il gruppo di Fratelli d'Italia con precisi impegni per tutelare i lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento triestino. La proprietà non ha alibi, si legge. Ci sono tutte le condizioni, secondo Fratelli d'Italia, che consentono a Varzila di mantenere la produzione in Italia. Prima udienza ieri della causa civile per risarcimento danni promossa da Kronospan Italia nei confronti delle due portavoce del comitato ABC Ambiente Bene per le Comunità, Lucia Mariuz ed Eleonora Frattolin. L'azienda, che ha recentemente ottenuto l'approvazione dell'ampliamento a Ponte Rosso, chiede 600.000 euro per danno d'immagine. Le due esponenti del comitato che si oppone al progetto hanno depositato la memoria difensiva, nella quale ribadiscono di aver esercitato il libero diritto di critica politica e ambientale. La prossima udienza è stata fissata per il 24 febbraio 2023. L'immigrazione può essere un'opportunità anche per le nostre imprese in una regione come il Friuli Venezia Giulia, che è in crescita ma fa fatica a trovare persone da inserire nel mondo del lavoro, a condizione però che ci siano regole, percorsi e gestione. Lo ha detto l'assessore regionale all'immigrazione Pierpaolo Roberti durante una conferenza organizzata a Trieste dall'associazione Oltre le Frontiere sull'accoglienza ai profughi ucraini. Nell'occasione è emerso il percorso virtuoso messo in pratica da altri immigrati per l'integrazione dei profughi rimasti in regione. Chi ci è passato lo sa quanto è difficile integrarsi in un paese straniero. Chi ce la fa cerca poi come può di aiutare i nuovi arrivati, qualunque sia la provenienza. Con questo spirito, l'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, promossa dalla CISL, ha organizzato un corso intensivo di italiano a cui hanno partecipato 49 ucraini in fuga dalla guerra. Ahmed Faghielmi, presidente dell'Associazione Oltre le Frontiere Friuli Venezia Giulia. Diamo supporto amministrativo e burocratico di come muoversi, insomma, le pratiche comunque per fare il permesso di giorno, prima accoglienza. Poi dopo, pensando, abbiamo visto tante adesioni di queste persone che sono venuti, anche le famiglie, ovviamente abbiamo detto facciamo anche un corso di lingua italiana o un corso intensivo, cose che è un po' rara che facciamo di solito, anche grazie al finanziamento che abbiamo avuto noi come fondo europeo. Si è tanto parlato di rifugiati di serie A e rifugiati di serie B, lei come la vede? Io l'ho anch'io vissuto, perché già sono stato criticato perché voi fate adesso un corso intensivo per gli ucraini, non per gli altri. Il corso di italiano, 70 ore in 3 settimane, è anche l'opportunità per donne minorenni di non pensare alla guerra che si sono lasciati alle spalle e di conoscere meglio il territorio. La professoressa di italiano per questo corso, Armida Itai. Hanno partecipato anche alle giornate in cui c'era il diluvio universale fuori, con l'infradito e i piedi bagnati, ma erano lì presenti durante tutta 3 le ore, e all'interno del gruppo c'erano anche persone di 80 anni e i più piccoli accompagnavano le mamme, ne avevano 6 anni e ci tenevano a leggere, ad essere presente, ed era veramente stata una bellissima esperienza. Tante le istituzioni coinvolte nel progetto, Regione, Comune di Trieste, Prefettura, e che in sala tessitori del Consiglio regionale si sono confrontate sulle buone prassi di accoglienza per i rifugiati. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La Regione integrerà con circa 2 milioni di euro gli importi accreditati sulle carte acquisti a favore dei beneficiari residenti in Friuli Venezia Giulia nella proroga che interesserà il 2023. A 2.600 beneficiari andranno 140 euro in più a bimestre che si sommeranno agli 80 euro statali. Il programma Carta Acquisti prevede l'attribuzione di una tessera di pagamento elettronica utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e per il pagamento delle bollette della corrente elettrica e del gas a favore di persone ultra 65 anni e di nuclei familiari con minori di 3 anni in possesso di determinati requisiti reddituali e patrimoniali. 10 milioni di euro come contributo straordinario a favore delle strutture residenziali per anziani, con cui ristorare la minore occupazione dei posti letto nel 2021. È quanto viene definito in una delibera della Giunta regionale. Per permettere alle strutture di far fronte al caro energia e all'inflazione, la Regione ha già stanziato 5 milioni di euro, che sono andati a sommarsi ai 4 milioni e mezzo erogati in precedenza con l'abbattimento della retta di 2 euro. Torniamo alla politica. Valuteremo il dialogo con tutte le forze politiche e civiche che si riconoscono nel campo progressista e che condividono le nostre proposte, ma con il terzo polo l'interlocuzione sarà difficile. È la posizione del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali del prossimo anno, posizione ribadita dopo il primo confronto che i consiglieri regionali del Movimento hanno avuto con il presidente Giuseppe Conte insieme al coordinatore regionale Sud e al senatore Patuanelli. Sul tavolo le istanze del territorio, dalla sanità pubblica ai temi ambientali, dallo sviluppo economico sostenibile alle infrastrutture. Il coordinamento No Green Pass di Trieste ha organizzato un corteo con partenza a Largo Riborgo alle 15 per protestare contro gli obblighi vaccinali decisi dal governo Draghi e contro la guerra in Ucraina. I temi dell'ambiente. In Friuli Venezia Giulia la media della raccolta differenziata dei rifiuti ha raggiunto il 70%, dato superiore alla media nazionale del 63%, e fra i capoluoghi di provincia italiani Udine è quello meno caro per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. I dati sono emersi da una ricerca dell'Associazione Cittadinanza Attiva. Tassa rifiuti più bassa in Friuli Venezia Giulia rispetto alla media nazionale e maggior percentuale di raccolta differenziata. È infatti di 247 euro la somma media pagata nel 2022 da una famiglia in regione, a fronte dei 314 euro del resto d'Italia. Con alcune differenze tra i capoluoghi. Si va dai 174 euro di Udine, capoluogo di provincia italiano in cui si paga di meno, ai 321 di Trieste, passando dai 182 di Pordenone, terzo per economicità, e dai 312 di Gorizia. In Friuli Venezia Giulia la tariffa è aumentata del 4,1% rispetto al 2021, con una impennata a Gorizia del 18% e un calo a Pordenone del 4,7%. Per quanto attiene la raccolta differenziata, a livello regionale siamo al 68% rispetto al 63% della media nazionale. A Pordenone si arriva addirittura all'87%. È questo il quadro che emerge dall'annuale rilevazione dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva. L'indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2022 una famiglia tipo composta da 3 persone, con una casa di proprietà di 100 metri quadri. L'indagine è realizzata nell'ambito del progetto Reuser, usa meglio, consuma meno, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Dall'indagine emerge poi che per quanto riguarda la tipologia di rifiuti differenziati, in Friuli Venezia Giulia la percentuale più elevata è quella della frazione organica, il 41,2%, seguita da carta e vetro. La percentuale di rifiuti che vengono smaltiti in discarica è dell'11,4% contro il 20% nazionale. Lara Razzani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'epidemia di Covid-19 in Italia riprende vigore, aumentati nell'ultima settimana contagi e ricoveri nei reparti ordinari, mentre l'indice di trasmissibilità RT è tornato dopo un mese sopra la soglia epidemica dell'unità a quota 1,04, che indica un livello di maggiore diffusione epidemica e il superamento della soglia di allerta. I dati del Ministero della Salute indicano che il Friuli Venezia Giulia non è per ora compreso nelle regioni a maggior rischio, tra cui figurano Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia e Veneto. Intanto però anche sul territorio aumentano i contagi. Il bollettino di ieri ha registrato 948 nuovi casi, dunque 200 in più rispetto a venerdì scorso. L'incidenza è salita a 468 casi settimanali per 100.000 abitanti. Il tasso di positività è del 20,5% e si è registrato un'impennata nei pazienti positivi dei reparti di area medica, che sono 211, dunque 21 in più in 24 ore. Cambiamo argomento, parliamo di shopping natalizio iniziato anche online con il Black Friday e a Udine con l'inaugurazione di Idea Natale. Chi siamo? Manca un mese al Natale e a Udine si apre la vetrina del regalo Idea Natale, giunto ormai alla 33esima edizione. Una 3 giorni dedicata al rito e al piacere del regalo, un appuntamento per promuovere imprese, artigianato, commercio, cultura e territorio e per accompagnare migliaia di visitatori nella scelta dei regali. Più di 150 espositori dal Friuli Venezia Giulia e da altre regioni italiane, con un occhio di riguardo anche al terzo settore, al volontariato e al mondo del no profit, proponendo idee di regalo solidali. Una manifestazione che per quest'anno si sviluppa su 3 giorni, ma con alcune novità. Antonio Di Piazza, presidente di Udine e Gorizia Fiere. Sicuramente concentrata per un motivo contingente, in questo momento l'energia costa carissima e di conseguenza anche Idea Natale ha dovuto un po' restringere i ranghi. Un copioso numero di espositori, che alcuni nuovi, molti nuovi, ed alcuni affezionati. La novità più importante è che c'è un'area evento al padiglione numero 7, all'interno della quale domani e domenica avremo l'opportunità di accogliere sia delle danze popolari, sia un concerto con canzoni natalizie, ma soprattutto domenica nel pomeriggio avremo l'esibizione delle scuole di danza del Friuli Venezia Giulia. Immancabile la presenza dei libri, un regalo che si apre infinite volte, e al libro e agli autori, agli editori del Friuli Venezia Giulia e ai librai è dedicato Idea Libri. Una serie di incontri, presentazioni e anteprime di pubblicazioni e racconti per tutte le età. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Restiamo a Udine, dove è tornata la Fiera di Santa Caterina, uno degli appuntamenti più attesi in città e non solo. Quest'anno, senza le restrizioni imposte dal Covid che avevano caratterizzato le edizioni precedenti, oltre 200 le bancherelle. L'altra novità dell'anno, oltre a venir meno delle restrizioni, riguarda il Luna Park, che è stato spostato nella zona dello stadio, e questo, fanno sapere dal comune, per consentire la presenza di un numero maggiore di giostre, che da 40 sono passate a 70. Le giostre si trovano in zona già da qualche settimana e se ne andranno con la fine della fiera di Santa Caterina. A Pordenone è stato presentato dal Comune il programma del Natale in città, l'inaugurazione sabato 3 dicembre alle 17.30 in piazza 20 Settembre. Saranno accesi l'albero e le luminarie e aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Prevista la realizzazione di un maxi tronchetto di Natale di 10 metri preparato dai pasticceri de Loyal. In piazza 20 Settembre sarà allestito il villaggio natalizio, dove si esibiranno alcune band di giovani musicisti. Ci saranno anche le tradizionali casette enogastronomiche, a cui si aggiungono quelle dell'artigianato locale e la casa di Babbo Natale. Previsto anche un servizio di babysitting presso la biblioteca civica. Le luminarie in centro saranno tutte a LED per risparmiare. In centro suoneranno la street band e il gospel on the road, mentre le mostre saranno visitabili con un biglietto unico. Il Capodanno in piazza sarà animato dal Taylor Quartet assieme a Lino Lodi e Stefano Mango. E ora parliamo di un'altra fiera dedicata a tutto quello che riguarda i matrimoni, un settore in ripresa, anche se con importanti cambiamenti. Settore in mostra ora a Pordenone. Un settore in ripresa dopo lo stop dovuto al Covid anche in regione. In Friuli Venezia Giulia si celebrano circa 3.000 matrimoni l'anno per una spesa media di 30.000 euro. In fiera a Pordenone il salone Riso e Confetti ha aperto tutto il fine settimana con i professionisti dei matrimoni. Oscar Noselli, organizzatore con la fiera di Pordenone. Il settore sicuramente si sta riprendendo piuttosto bene. I 2 anni che abbiamo passato con la pandemia ha fatto sì che la ripartenza fosse una ripartenza piuttosto esplosiva, però diciamo che nei prossimi 2 anni riteniamo che sia un settore che può ancora crescere. Diminuiscono le funzioni religiose e cresce l'età degli sposi. Che tipo di matrimonio avete in mente? Siamo attorno alle 50-60 persone, essendo il secondo matrimonio. La spesa maggiore è il catering o il servizio di ristorazione, che dir si voglia. Sono quelle spese importanti che poi fanno anche piacere e fanno convivialità. Nel centinaio di stand all'interno del padiglione 5 le novità del settore. Abbiamo anche pizzi in rilievo, senza perline, però che hanno una struttura un po' diversa, come potrebbe essere anche un'idea della tuta. Per la cerimonia un'auto elettrica? Sì, lo stanno chiedendo. Sposi giovani e attenti all'ecologia. Loro ricercano, vogliono qualcosa di più particolare. no? E quindi ricercano a livello proprio di fiori, di allestimenti particolari, non vogliono le stesse cose, quindi vanno a cercare il meglio, ecco, e spendono di più. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Chiede un aiuto concreto la 26ª giornata nazionale della colletta alimentare, iniziativa che invita a donare prodotti a lunga conservazione acquistabili nei supermercati per sostenere persone in difficoltà. A Clara Braidotti, responsabile della comunicazione della Fondazione Banco Alimentare, abbiamo chiesto una presentazione dell'iniziativa. Oggi siamo in tutti i supermercati, in quasi tutti, il 90%, in Friuli Venezia Giulia, ce ne abbiamo quasi 400, siamo riusciti a mettere in campo 7.000 volontari che presidieranno questi punti vendita, dai centri commerciali più grandi fino agli esercizi più piccoli dei paesi. Siamo molto contenti perché l'adesione dei volontari è stata alta, abbiamo reclutato tantissime persone tra i soliti gruppi che, come di consueto, ci daranno una mano, ma fra tantissimi altri gruppi associativi, istituti superiori, appunto tanti studenti e tante persone di buona volontà. Sarà possibile donare in tutta la giornata di oggi alimenti a lunga conservazione, quindi non deperibili, ai volontari che presidieranno i punti vendita con la pettorina arancione. Speriamo che sia una colletta alimentare fruttuosa, perché in una giornata potremo raccogliere tra le 400 e le 500 tonnellate di alimenti che verranno poi stoccate nel magazzino di Casal di Prato e redistribuite a 317 strutture caritative del territorio che sono convenzionate con noi e che riescono a raggiungere in Friuli circa 36.000 persone in grave stato di bisogno. E solo nella provincia di Udine, per fare un esempio, si sono aggiunte 300 persone negli ultimi mesi. Quindi l'emergenza c'è, è ancora viva, e Banco Alimentare propone la colletta appunto per andare incontro anche al bisogno che si fa sempre più sensibile, sempre più presente. E la colletta alimentare continua anche nei giorni prossimi online, si può andare sul sito colletta.bancoalimentare.it e ricevere tutte le informazioni per donare anche dalle piattaforme online. Torna in regione l'iniziativa Un Panettone per la Vita, organizzata da ADMO, l'associazione donatori di midollo osseo. Da oggi fino all'11 dicembre in diverse piazze del territorio sarà possibile acquistare un panettone, un pan d'oro, il cui ricavato sarà utilizzato per le attività dell'associazione dedicata al dono di midollo osseo. Sarà inoltre attivo il negozio online, in cui sarà possibile effettuare una donazione libera che verrà ringraziata con una cartolina elettronica. L'attività dell'associazione consente di trovare donatori compatibili per i malati in attesa di trapianto, compatibilità che si verifica in un caso su 100.000. 14ª edizione per la giornata nazionale Parkinson, iniziativa che come ogni ultimo sabato di novembre in oltre 100 centri della Fondazione Limpie di tutta Italia fornirà informazioni a malati e a chi presta loro assistenza in tema di farmaci, supporti e progressi scientifici. Alle 7.41 passiamo allo sport, iniziando dal calcio. Dopo 10 giorni di riposo l'Udinese ha ripreso la preparazione al centro sportivo Bruseschi. Dopo quella di ieri, oggi è in programma una nuova seduta mattutina. Intanto la società ha reso noto che i bianconeri di Mister Sottil affronteranno in amichevole sabato 17 dicembre alle 20 alla Dacia Arena l'Athletic Bilbao, squadra quarta in classifica nella Liga Spagnola. Basket maschile in Serie A, esame di maturità per la Pallacanestro Trieste che questa sera alle 20.30 al Palarubini affronterà la Germani Brescia con l'obiettivo di agganciarla in classifica a quota 6 punti. Brescia, che fra l'altro martedì affronterà Venezia in Eurocup, ha ripreso coraggio dopo la bella prova con Tortona e stasera, senza l'indisponibile Troy Copen, farà visita a una Trieste che in settimana ha accolto Ruzier. In Serie A2 di basket la Gesteco affronta Cividale Ferrara, che in classifica ha 4 punti in meno dei gialloblu. Pillastrini avrà a disposizione il play guardia statunitense Clark, appena arrivato in Italia. Finora i Ducali hanno sempre vinto in casa, palla 2 alle 20. In campo femminile in Serie A2 stasera alle 19 va in scena il derby regionale tra la Women Up Udelse Udine, reduce da 6 vittorie consecutive, e la Futurosa Forna Trieste. Si gioca al Palasport Manlio Benedetti. La Delser occupa il terzo posto in graduatoria, la Futurosa è ottava. L'ingresso al Palasport Benedetti è libero per tutti. Pallanuoto maschile in Serie A1, big match oggi pomeriggio alla piscina Bruno Bianchi di Trieste, dove scenderanno in acqua la Pallanuoto Trieste e l'Ortigia Siracusa, capolista a punteggio pieno. Si gioca alle 15.45, ingresso gratuito con prenotazione del posto tramite l'app iPrenota. e a seguire scenderanno in acqua le ragazze della Pallanuoto Trieste in uno scontro diretto contro il Bogliasco, obiettivo rimanere nella parte alta della classifica di Serie A1. L'inizio della gara è fissato alle 18.30, anche in questo caso ingresso gratuito con prenotazione del posto tramite l'app iPrenota. Pallamano maschile, la terz'ultima giornata del girone di andata può rappresentare un ulteriore passo per consolidare l'attuale buona posizione in classifica per la Pallamano Trieste, che stasera alle 19 al Pala Chiarbola ospiterà il fanalino di coda San Vito Marano. Questa mattina a Sistiana si terranno le premiazioni della 10ª edizione del Solo 2, circuito di 9 prove in cui i regatanti si cimentano in solitario e in doppio nella conduzione della barca a vela, che ha coinvolto i 10 circoli organizzatori da Muggia a Monfalcone. Un evento unico in Italia che ha messo alla prova le qualità velistiche di marineria degli equipaggi con il coinvolgimento di grandi esperti. Verranno premiati i primi classificati di ogni categoria tra quelle previste dal regolamento Open Altura vigente, i primi tre assoluti e i fedelissimi, gli iscritti a tutte e 9 le prove. Sono le 7.44, apriamo la nostra rassegna stampa partendo dal Piccolo di Trieste che dedica la sua prima pagina a due questioni che riguardano il presente e il futuro industriale della città. Una foto con il titolo Varzila si punta alla ripresa dell'attività annuncia l'incontro fissato per martedì prossimo a Roma e l'ipotesi che si possa trovare un accordo per una produzione fino alla fine dell'agosto 2023, accordo che porterebbe allo sblocco dei motori in consegna per Fincantieri. C'è poi la novità che riguarda la British American Tobacco e il suo stabilimento, anche questo a Bagnoli della Rosandra. Il punto franco per BAT, titola il Piccolo. Primo sì delle dogane all'esenzione fiscale integrale. Il presidente del Porto d'Agostino commenta, è una tappa epocale per Trieste, ossia il punto franco industriale. Le dogane hanno ammesso infatti le attività di BAT al regime di esenzione fiscale integrale per le lavorazioni estero su estero. La cronaca di Trieste del Piccolo si apre invece con un classico tema prenatalizio. Il viale si veste in attesa della fiera di San Nicolò e gli esercenti si dividono. Nel vivo l'allestimento dei gazebo, via tutti dehors, ma l'umore fra i gestori. Così disagi e meno affari, ma c'è anche chi ritiene l'evento un attrattore di clienti. L'apertura e la fotonotizia dell'edizione del Messaggero Veneto di Udine informano su un'ispezione del nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri in una struttura di Grions del Torre in cui è emersa la cattiva condizione igienica in cui sono ospitati una ventina di migranti. A corredo l'intervista al responsabile della cooperativa che si occupa della gestione dell'accoglienza. Capocronaca interno, un reportage sui controlli allo spreco di energia nei negozi dovuti al mantenimento delle porte aperte. Spazio poi alla vicenda del caffè Contarena, ora chiuso per ordine del Tribunale dopo l'avvio della liquidazione giudiziale. C'è poi la messa in vendita del castello di Susans con un annuncio sul web. L'edizione di Udine del Gazzettino quantifica gli ingressi di migranti in regione, ora quota 15.000 da inizio anno. Per la giudiziaria, la costituzione a parte civile dell'associazione I Nostri Diritti nel processo a carico di Paolo Castellani per l'omicidio della moglie Elisabetta Molaro. Spazio poi alla riapertura delle terme di Arta in dicembre, grazie al sussidio regionale. La struttura è chiusa da settembre a causa del caro bollette. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo apre la prima pagina con l'industria. Effetto Varzila a Gorizia è il titolo. In arrivo la cassa integrazione alla Newton. I sindacati proclamano lo stato di agitazione. L'azienda opera nel settore carpenteria e ha proprio Varzila come cliente principale. Si rischia, insomma, un effetto domino. In prima pagina anche il richiamo alla giornata contro la violenza sulle donne con la foto delle scarpe rosse, simbolo degli eventi che ci sono stati a Ronchi e Staranzano, mentre Monfalcone prepara la sua panchina rossa. Le cronache di Gorizia, oltre al caso Newton, riportano la notizia dei conti rimessi in ordine da parte dell'Automobile Club di Gorizia che aveva grosse difficoltà finanziarie. Ora non ci sono più creditori e così l'ACI Gorizia risanata programma il futuro, recita il titolo del Piccolo. L'apertura delle notizie di Monfalcone è invece dedicata al porto, le nuove merci destinate all'estero, garanzia di svolta per Porto Rosega, la prima volta del legno, raggio di azione allargato. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto dà conto della riunione tra amministrazione, gestore della raccolta rifiuti e commercianti del centro in merito alle nuove regole della raccolta differenziata, in cui sono emerse richieste come ritocchi agli orari e l'aumento dei contenitori. Da San Quirino il progetto di un'abitazione con le pareti imbottite di paglia in un'ottica di sostenibilità e risparmio energetico. Dal Gazzettino di Pordenone i 50.000 euro spesi per le bollette energetiche della Cittadella della Salute, che ancora non riesce a utilizzare l'impianto di pannelli solari installati sul tetto lo scorso anno. Da Cordenons la cassa integrazione attivata per i 180 lavoratori della cartiera. 7.48, gli appuntamenti, propone di cedere vestiti ancora in buono stato ma che non si usano più, scambiandoli con quelli di altri partecipanti, il Peciots Party, iniziativa che promuove il riutilizzo per rendere il nostro modo di vestire più consapevole. Dalle 15 all'Usevera ciascun partecipante potrà portare al massimo 5 capi in buono stato, esclusi intimo, scarpe e accessori, a cui verrà assegnato un valore in gettoni. Con i gettoni si potranno scegliere altri vestiti, così da ridurre gli sprechi e la quantità di oggetti che ogni giorno finiscono in discarica. Segnaliamo ora altri appuntamenti culturali odierni. Per gli spettacoli, la commedia goldoniana I due gemelli veneziani, nella chiave noir del regista Walter Malosti, sarà in scena a Pordenone al Teatro Verdi alle 20.30. La rassegna Luce d'autunno propone la proiezione del film Marcel di Jasmine Trinca a Spilimbergo al Cinema Miotto alle 21. A seguire in programma la consegna del premio Il Quarzo di Spilimbergo a Daria D'Antonio. Filippo Nigro sarà il protagonista di Every Brilliant Thing, le cose per cui vale la pena vivere, a San Vito al Tagliamento all'Auditorium Centro Civico alle 20.45. Il Gran Galà della Magia, iniziativa dell'associazione Friulanan Donatori Sangue di Udine, in cartellone al Teatro Palamostre alle 17. Per la rassegna Fiabe allo zucchero filato sarà in scena lo spettacolo Storie Ridarelle a Trieste al Teatro dei Fabbri alle 16.30. La musica è Ceremony of Carols, è il concerto del Festival Internazionale di Musica Sacra che vedrà protagonista il piccolo coro Artemia diretto da Denis Monte a Pordenone nella Concattedrale di San Marco alle 20.45. Per la penultima tappa del festival Il Volo del Jazz, la band inglese Cocoroco si esibirà a Sacile al Teatro Zancanaro alle 21. Concerto finale per il Festival delle Arti in Lingua Minorizzata Suns Europe, che tra i partecipanti include il friulano Massimo Silverio a Udine al Teatro Nuovo alle 21. Il concerto dei giovani studenti della Brass Band del Conservatorio Tomadini di Udine in cartellone a Palmanova nel Duomo Dogale alle 20.30. Altre iniziative in programma Pordenone: Porte Aperte in Consiglio, iniziativa che prevede l'apertura al pubblico per la visita guidata del Palazzo Municipale dalle 10 alle 12 con visita guidata di alcuni consiglieri comunali. È stata prorogata fino al 4 dicembre la mostra AAA Animal Among Animals alla Galleria Spazzapandi Gradisca di Sonzo. Per l'occasione è stato organizzato l'incontro In Common, a cui parteciperà Daniele Capra, coautore del libro dal medesimo titolo, in programma alle 18. Al Civico Museo di Storia Naturale di Trieste è in programma Zoologia Invisibile, visita speciale con il curatore per la zoologia del museo dalle 11 in 3 turni di 40 minuti. Il calendario del Sentiero dell'Avvento Adventpur di Malborghetto Valbruna prevede un'escursione da compiere alla luce delle lanterne della lunghezza di 2,5 km senza dislivelli, che attraversa il bosco e la piana del paese, con partenza presso la caserma dei pompieri volontari dalle 16. La presentazione della ristampa del libro di Tarcisio Petracco, La lotta per l'università friulana, si terrà a Udine nel Salone del Parlamento del Castello alle 10.30. Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà un concerto del cantautore irlandese Damien Rice, 2 le date del suo tour europeo, Milano il 29 marzo e appunto Udine il 31, biglietti in vendita dal 2 dicembre. Altro concerto annunciato da Vigna PR è Abba Symphonic, che con una tournée celebra i 50 anni del quartetto svedese Abba, 2 concerti previsti in regione, il 4 febbraio al Politeama Rossetti di Trieste e l'11 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Passiamo ora alle nostre rubriche. Alle 12.25 in TV su Rai 3 torna il settimanale, il magazine della nostra testata giornalistica regionale. Sentiamo di cosa tratterà. Torna il settimanale in questa puntata il fenomeno delle auto depredate, i furti di cruscotti, volanti, navigatori. In 5 anni solo in Veneto sono quadruplicati. La violenza sulle donne, la storia di Chiara e il coraggio di raccontare. Trento e i mercatini di Natale, liberi dalle restrizioni anti-Covid ed è subito successo di pubblico. A Venezia la mostra interattiva per scoprire le nostre potenzialità nascoste. Il melograno, le sue proprietà nutritive e i 1000 utilizzi in cucina. Napoli e Maradona nel secondo anniversario della morte del calciatore. Le acrobazie comiche dei Black Blues Brothers dal quartiere generale di San Donà ai teatri di Mezzomondo. Oggi nel settimanale 12.25 Rai 3. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30. Biblos, conosceremo oggi lo scrittore inglese Jonathan Coe, incontrato alla presentazione del suo nuovo libro Bourneville a Trieste. E poi scopriremo la funzione fondamentale di promozione della cultura sul territorio che hanno le biblioteche. Ce ne parlerà Romano Vecchiet, direttore della biblioteca Ioppi di Udine per 30 anni, autore della Biblioteca di Tutti. 7.53 si chiude questa edizione del giornale radio regionale redatta e condotta in studio da Maria Spezia e Andrea Covre. Andate in onda grazie alla collaborazione tecnica di Tommaso Vinoni e Bruno Montevecchi. In redazione ha collaborato Samantha Gon. Prossimo appuntamento con l'informazione radiofonica regionale alle 12.30. Grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.